ma è tempo d'assottigliar l'ingegno. Assottigliam. Venno punta il qui del paese che a nome porti. Sì, quell'uomo è un gran borghese, più liberal d'un credo. E una la moglie bella al cielo scrigno è quella. Amor, sua di stella, con l'occhi cigno, figlia profondio, via che ride. Alice il nome, e un giorno, come passarmi vide, ne suoi paraggi.